tutto me l'ho pulito e poi gli ho rimesso l'acqua sua là, e gradi che servono. Ascolta Massimiliano, ma ascolta, sei molto vicino alla tua reale, ti arriva la quattresa da aprire sul rubinetto? Sì, però il rubinetto è nel posto là. Vicino potrebbe arrivarti un'immaginata alta di cloro. Tu non hai filtro nel rubinetto? No, riesce è tutto dentro l'acquario, filtri, filtrini, filtretti, carboni attivi, viene poco di roba, andatevi cercate una roba che va dentro l'acquario. Cioè, stavo leggendo lì vicino, lì per essere proprio pulito, deve essere acqua distillata, cioè con le condizionatori. E ora proprio va, va a migliorare proprio i fisci, proprio due cose, capito? E tu ci muore proprio va, mi dimentichi di cucani o un guardarame da Roberto. Vabbè, ma se ne è quando... Invece verde non ce l'hanno, ma proprio verde è vero, completamente. E che devo buscare? La pietra la metto al centro, capito? Una bella pietra. Una bella pietra, quelle buccate, quelle belle. Lì c'è, sarebbe bello. Un manico di anfora. Vedi, quello sarebbe stato bello, sì. Messo al centro, pulito prima, così metto lì tutti i mattini, tutte le cose, pulito e messo lì al centro. Esatto, da sotto magari fa uscire le pulizie. Sì, adesso c'ho una specie di bocone, l'ho buttato, gli ho fatto entrare il filtrino, quello che fa le bolle, l'aeratore. Capito? Non ho capito, capito. Il termometro per l'acqua, per scaldare l'acqua d'inverno. C'è il termostato dentro, è sopra acceso, lo tiene sempre a 25 gradi. Aveva uno grande pesci tropicali. Noi avevamo piccolo di acqua marina. Non ce l'aveva detto, bellissimo. Anche io lo prendo uno di acqua marina. È più bello, come faccio di acqua marina, è molto più bello dei pesci tropicali. Ma bello però, me. Bello, ma ci vede acqua marina, ce lo fai bene. Allora, questa sabbietta, quella lì della di Sintino, la bianca, il passotto. C'aveva anche, perché sai, l'acqua marina è ma meglio perché ci sono tutte le alghe marine, c'erano fere, posidonia, tutto, ma era bellissimo, e poi ci avevamo messo pesci piccoli però di acqua marina, ma sono diventati enormi, enormi, c'era un saraghetto, sono tanto era diventato umano, cresciuto. Ah, io l'intenzione mia era metterci un paio di polpi, farli crescere, poi me li mangio. Sì, ma infatti si può fare anche così, anche se ci metti una cappretta marina, capito? Due granchi, gambe sommane, un altro, ne pigli uno, bollisce e farò la pasta. Un prosciughetto. Allora, aveva quelle, diciamo, quelle anguille piccoline, insomma, non erano molto grandi. Ma ti dico, era molto bello quello che mi ha fatto. Poi il verde era tutto proprio vero, tutto vero, invece di acqua dolce. E mi ero andato al rio a pigliare, ci sono le piantine a bordo fiume, che di acqua dolce, che si possono mettere in quegli acquari, ma non sono belle come le piante marine, capito? Sì, ma le piante vai all'acquario, lì dove vendono la roba di acquario, te le compri, due piantine, costano la gassata, costano 3 euro, 3,50 euro. Poi dipende da quanto ce l'è grande anche l'acquario, capito? Non è che per fare questo è 58 litri, da, fai 60, per mettere una bella pianta al centro, ma poi non è che lo puoi riempire di piante. Come mi ha fatto le 80 litri? Grande, enorme, sono via due miristalli, un mattino, tre anzi una via. Bellissimo, molto bello, illuminato, bello, molto bello. Molto bello, c'era qualcosa automatico, quello era mangiare i pesci, capito? La cassettina con il timer, andava in automatico. Scappalogero, positivo. Là, io scendo giù un attimino, che ci devo conservare questo drone, prima mi faccio un giretto col drone, e poi quando si scarica la batteria devo correre dentro il cazzo e non lo lascio più. E do una mano anche a Daniela, stiamo sistemando un po' la casa, là. Gappa, gappa, fai Massimiliano, tranquillo e sereno, io sono qua in ascolto, tanto in 10 minuti devo mangiare Filippo, poi sono qua. Va bene, dai, se coincide a dopo, sono sempre qua in ascolto su 10. E lei ha tanto vero, mi ringrazio, lo vedendo, io sono... La conoscita è pettinosa, ma sto scherando, capito? C'è un bombe di caldo per caso. Ma essendo giù mi faccio un giretto con droga. E poi... Poi risalgo là, dopo però, capito? Mi stacco un po'. Vai tranquillo, io mi stacco. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao, dopo.